9 in punto. Io sono andato allo sportello 2, come mi hai detto tu, e quello dice che se non gli do la carta d'identità non mi può dare il certificato di nascita, l'ha detto lui! Ma io non le posso dare la carta d'identità senza il certificato di nascita! Torni allo sportello 2 e poi venga qui con la carta d'identità! Permesso, permesso! Adesso va rapido, eh! Mi favorisca qui, mi favorisca là, e vada al numero 2, vada al numero 16! Largo, largo! Permesso, levatevi, c'ero prima io! Via, dove vai? Ehi, ehi, vieni qui! Mi ha detto quello che se tu non mi dai prima il certificato di nascita, lui non mi può dare la carta d'identità! Stiamo tutto, signore, mi scusi un momento solo! Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Oggi abbiamo deciso di parlare di burocrazia. Ieri il governo ha varato un DDL sulle semplificazioni che contiene una serie di cose che riguardano in parte i cittadini, in parte le imprese. Siamo partiti da qua, lo avete sentito, insomma si gioca anche un pochetto, da Banana Joe. Mi segnalate su Twitter che c'è anche un bel pezzo di Asterix su come funziona la burocrazia. L'abbiamo pescato, ce lo sentiremo magari più tardi in corso d'opera. Allora, voglio iniziare però leggendovi, se riesco a recuperarla, una mail che ci è arrivata poco fa, mi è arrivata da un geometra e l'ho trovata abbastanza indicativa di quello del tema sul quale vogliamo entrare oggi davvero. Ci scrive: la stessa normativa che vale in un comune non vale nel comune limitrofo, la stessa normativa che vale in un ufficio catastale provinciale non vale nell'altro ufficio provinciale, la stessa normativa che vale in uno sportello di agenzia delle entrate non vale in un altro, la stessa normativa varia a seconda del personale di turno, per cui ad esempio una pratica catastale che va bene il giorno prima, insomma questa stessa pratica non va bene il giorno dopo. Magari chiedo a Filippo Aureggi, così rintroduciamo bene, a Filippo Aureggi che è in regia, se riesce a caricarmi al volo l'audio di Asterix, così ce lo possiamo sentire, anche questo dà un po' il senso. E che cosa dobbiamo fare nella casa che rende folli? Oh, è semplicissimo. Dovete ottenere un lasciapassare che vi permetterà di accedere alla prova seguente. Ah, ho capito, si tratta di una semplice formalità amministrativa. Esatto, una formalità amministrativa. Voi dovrete richiedere il lasciapassare a 38. Bene, andiamo Obelix. Che cosa desiderate? Desideriamo avere un lasciapassare a 38. Allora vi hanno indicato male, dovete presentarvi allo sportello 2. Quello qui a fianco. No, quello è lo sportello 8, lo sportello 2 non so dove lo hanno messo. Chiedete lo share, lui ve lo dirà. Lo sportello 2. Uffa, vi ho già detto che il porto è in riva al mare. Ma io non voglio il porto, io voglio... Andiamo, signori, un po' di calma, prego. C'è gente che lavora qui. Cosa desiderano i signori? Non lo so, signor prefetto. Farfugliano delle cose incomprensibili. Noi cerchiamo lo sportello numero 2. Lo sportello 2, dunque vediamo dove si troverà lo sportello 2. L'ultima volta che l'ho visto, mi scusi, signor prefetto, era al terzo piano, corridoio B, porta 6, signor prefetto. Insomma, nemmeno si sa dove stanno gli sportelli. Ministro Giampiero D'Alia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, prima di parlare con lei di tutto questo, la preparo se vuole, perché quel che voglio capire io è che sì, si fanno i provvedimenti, poi però è la testa di questa pubblica amministrazione che probabilmente va cambiata. Però ci arriviamo. Intanto io saluto Mario Puccioni, che è un imprenditore, amministratore delegato appunto della sua azienda, della Puccioni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, c'è una bella storia, la vostra, oltre ad essere naturalmente una bella storia aziendale, una bella storia di burocrazia che per fortuna si è conclusa bene, si è sbloccata. Mi sa dire, mi dà un'idea di tra quante autorizzazioni siete dovuti passare? Voi avete voluto costruire un impianto tra l'altro, l'altro premiato dall'Unione Europea proprio per la sua ecocompatibilità, per il recupero e la rigenerazione dell'acido cloridrico a Vasto, in provincia di Chieti, se non erro. Dunque, quante autorizzazioni innanzitutto, mi dica? Ma le autorizzazioni, guardi, non lo so, sicuramente oltre la ventina. Quello che noi abbiamo toccato con mano è stato che abbiamo perso la parola, non può essere più vera, circa 2 anni per farci autorizzare un impianto che è stato definito dalla Comunità Europea una perla dal punto di vista dell'ecocompatibilità ed è stato premiato per questo motivo. Questo è quello che è successo. Duplicazioni di carte, passaggi fatti presso gli stessi enti più di una volta per ottenere lo stesso permesso nell'ambito di 2 procedimenti autorizzativi diversi, insomma è stato veramente un parto, sì, una cosa terrificante, che non consiglierei a nessuno. Un parto, ma appunto vista la durata, con la gestazione di un elefante. E tra le richieste che poi sono arrivate con la VIA, la valutazione di impatto ambientale, c'era anche il monitoraggio della nidificazione del gabbiano reale, mi sbaglio, è così, o anche di altri uccelli forse? Sì, del gabbiano reale e dell'uccello pratino. Diciamo che praticamente la Regione Abruzzo, nella fattispecie, non riunisce procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, per cui noi abbiamo dovuto fare 2 procedimenti separati. Al termine del procedimento di VIA, che è stato quello che poi ha fatto sì che l'impianto potesse essere ammesso ad un secondo procedimento di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione VIA aveva messo tra le varie prescrizioni per poter di compatibilità ambientale il monitoraggio di queste 2 specie animali, che faccio presente non sono due specie protette, ma sono 2 specie comuni sull'Adriatico. Sì. E chiaramente abbiamo fatto presente che ci sembrava una prescrizione quantomeno singolare, insomma, che un privato dovesse fare dei monitoraggi. E infatti poi c'è stato l'imbarazzo in sede AIA di dire: diteci a quale legge noi ci dobbiamo allineare per fare questa cosa, insomma. E anche i funzionari che poi hanno rilasciato molto faticosamente l'AIA, non sapevano neanche loro che pesci prendere, ecco. Allora, per il buon della pace ce la siamo presa e abbiamo pagato poi un ornitologo per fare questo. Quindi alla fine l'ornitologo l'avete pagato. Bene, allora resti con noi, Puccioni. Abbiamo con noi il ministro Giampiero D'Alia. Tra poco, ministro, arriveremo anche ai contenuti del decreto. Ci sono delle cose interessanti e importanti. Detto ciò, però, io voglio partire da questo, che è il tema fondamentale, secondo me, perché uno può normare quanto vuole, come ci scrivono, come mi scrivono adesso su Twitter, poi però il problema è l'attuazione. L'attuazione passa per una serie infinita di livelli amministrativi e anche una serie infinita di teste, come da mail che leggevamo in apertura e che mi è arrivata questa mattina, dipende anche da chi trovi in turno, cioè il funzionario il giorno prima ti dice che la pratica va bene, il funzionario il giorno dopo ti dice che quella pratica non va bene più come l'hai fatta. Allora qua c'è un problema di testa della pubblica amministrazione da cambiare, ministro, prima ancora che di norme. Ma guardi, vale l'uno e l'altro, nel senso che ci sono, troppe sacche di stupidità in alcuni settori delle amministrazioni pubbliche che pensano che produrre carta sia un alibi per mettersi a posto dalle proprie responsabilità. Io penso che su questo bisogna incidere anche con una cultura dell'amministrazione che oggi deve cambiare nel senso che non è che la produzione della carta aiuti i cittadini e le imprese. La produzione della carta aiuta solo a far sentire il burocrate a posto con la sua coscienza. Detto questo, è giusta l'affermazione secondo cui bisogna verificare l'attuazione e anche la utilità delle disposizioni che entrano in vigore. E qui però ci sono, mi permetto di fare due osservazioni se è possibile, proprio prendendo spunto dalla vicenda che ha riguardato Puccioni. Sì. Noi abbiamo troppi livelli territoriali di governo e troppe burocrazie. Abbiamo la burocrazia statale, quelle regionali, quelle provinciali, quelle comunali, licenze di decisione, troppi livelli di interruzione tra il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Su questo noi dobbiamo intervenire radicalmente, lo possiamo fare però cambiandola con i poteri che oggi la Costituzione dà allo Stato, alle regioni e al sistema delle autonomie, perché quando ci sono attività economiche che hanno un rilievo. Sì, la stiamo un po' perdendo, la stiamo un po' perdendo, ministro. Io so che in viaggio, insomma, da Roma, insomma, vediamo adesso se riusciamo a far reggere la linea. Io intanto vi ricordo il numero, l'800 24 00 24, per intervenire in diretta, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, oppure il mio account Twitter, Simone Spezia. Ci dice Francesco, per esempio, mi scrive su Twitter: se non si capisce che la pubblica amministrazione fornisce servizi ai cittadini e non il contrario, non si andrà da nessuna parte. Giovi dice: la burocrazia è un disordine organizzato dove il facile è reso difficile attraverso l'inutile. Forse è una citazione questa, se non sbaglio, però non so da dove arrivi esattamente. Vediamo se abbiamo recuperato da lì. Pronto? Sì, ci sento. Eccoci qua. Allora, diciamo, troppi livelli territoriali e soprattutto una distribuzione dei poteri evidentemente sbagliata e che va rivista per via costituzionale, evidentemente. Evidentemente sì, perché il sistema delle competenze legislative e amministrative le stabilisce la Costituzione. Ma detto questo, io credo che bisogna incidere anche sul livello, diciamo così, della responsabilizzazione dei funzionari. Noi nel decreto legge sul fare abbiamo introdotto una norma che prevede una multa per quei funzionari e per quelle amministrazioni che non rispettano i tempi del procedimento. Questo significa che se io devo rilasciare un'autorizzazione in un tempo predeterminato dalla legge o dal regolamento della mia amministrazione e ritardo e non adotto nei tempi il regolamento, scatta automaticamente una sanzione che è parametrata ai giorni di ritardo. Questo serve, al di là del fatto più o meno simbolico della sanzione, nel senso che la multa è di 2.000 euro, serve sostanzialmente a segnalare tutte le situazioni di inefficienza che portano ad accertare attraverso la Corte dei Conti, attraverso le strutture di controllo disciplinare del Ministero e dell'Amministrazione, quelle realtà amministrative che ostacolano il lavoro delle imprese. La seconda norma, che sempre nel decreto legge, quindi che entrerà in vigore a seguito della conversione del decreto che abbiamo presentato in Parlamento, prevede le date uniche per gli adempimenti e per tutti gli obblighi amministrativi e fiscali a carico di imprese e cittadini. Oggi le norme entrano in vigore secondo disposizioni che prevedono il giorno dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nei 15 giorni successivi, eccetera. E noi diciamo che per quanto riguarda quelle disposizioni normative che introducono nuovi obblighi per i cittadini e per le imprese, queste devono entrare in vigore il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a seconda se sono adottate nel primo semestre o nel secondo semestre dell'anno stesso. Questo serve a far sì che il cittadino e soprattutto l'impresa sappia qual è il quadro regolatorio di riferimento, sì, quali adempimenti debbano essere posti in essere e che tempi ci sono. Una riduzione sostanziale dell'incertezza regolatoria, naturalmente, e questo è un elemento importante. Io però voglio chiederle a questo punto, visto che lei ha introdotto il tema delle sanzioni nei confronti appunto della pubblica amministrazione in ritardo, anche, e ritorniamo a bomba, no? E quanto è esteso però il diritto di proroga anche su queste autorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni? Perché poi no, il problema è che ritorniamo sempre là, si norma, le norme sono giuste perché comunque si crea un effetto deterrente da una parte, un effetto importante per il governo centrale che in questo modo può capire dove si accumulano i ritardi, no? Che quindi un effetto di monitoraggio importante, e però dall'altra parte appunto... Quanto è esteso questo diritto di proroga da parte delle amministrazioni? Guardi, noi abbiamo esteso a tantissimi procedimenti con queste misure di semplificazione, ad esempio il silenzio assenso, per cui tanti provvedimenti o la segnalazione certificata di inizio di attività, che sono forme che responsabilizzano il cittadino e l'impresa a prescindere e quindi consentono di fare attività anche nel caso in cui l'amministrazione non si pronunci con un provvedimento espresso. Questo avviene, le misure che abbiamo predisposto sono misure che riguardano il settore edilizio, che riguardano il settore ambientale. Prima ti faceva riferimento alle procedure sulla valutazione di impatto ambientale, sull'autorizzazione integrata e così via. C'è una norma che noi abbiamo presentato in Parlamento e che fa parte del disegno di legge che abbiamo approvato ieri in Consiglio dei Ministri, che prevede tutta una serie di semplificazioni su questi procedimenti che sono complessi, ma che sono a volte anche complessi per alcuni aspetti inutilmente, nel senso che ci sono degli adempimenti o ci sono dei procedimenti che non servono a tutelare il paesaggio, l'ambiente e la salubrità dell'ambiente, ma sono degli aggravamenti di burocrazia che poi incidono sui tempi di investimento dell'impresa. Stesso discorso abbiamo fatto nel settore del lavoro e della sicurezza sul lavoro, dove abbiamo semplificato una serie di procedure che non intaccano l'esigenza di tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma che soprattutto ai piccoli imprenditori o nelle realtà più complesse evitano che vi siano troppi oneri burocratici che non servono a salvaguardare la salute ma servono e che incidono sugli oneri amministrativi delle imprese. Ho fatto alcuni esempi per dire che ci sono delle misure che entrano direttamente in vigore, sono pienamente efficaci e che sono sanzionate se non sono rispettate dall'amministrazione. Allora, io so che ancora qualche minuto per rimanere con noi, così possiamo sentire anche qualche ascoltatore. E poi voglio parlare con lei anche di questa storia del tutor per l'impresa, no? Questa figura che dovrebbe aiutare appunto le imprese negli adempimenti amministrativi. Voglio capire bene da lei come funziona questa cosa, se è previsto per questo, insomma, se è previsto il nuovo personale per questo, se si userà il personale esistente, se verrà formato in qualche altro modo, perché a volte le stesse persone che lavorano nella pubblica amministrazione non conoscono bene i meandri delle altre pubbliche amministrazioni. Giovanni ci chiama da Milano, buongiorno. No, non ci chiama più da Milano. Luciano da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho dovuto chiedere, sono presidente di un'associazione sportiva, ho dovuto chiedere un permesso per costruire una terrazza e ci voleva l'autorizzazione paesaggistica ambientale. Bene, il comune di residenza, la provincia, la sovrintendenza hanno lavorato molto velocemente, cioè quando ricevevano la pratica in protocollo in un giorno la sbrigavano e la rispedivano, però ci sono voluti 4 mesi per trasferire dal comune alla provincia, dalla provincia alla sovrintendenza, la sovrintendenza indietro alla provincia e dalla provincia al comune. Voglio dire, questo è semplicissimo da risolvere, basta un po' di posta elettronica e probabilmente abbiamo qualche risparmio di mesi, di tempo rispetto a sì, poi è vero anche che, guardi, lo dico non per fare, no, l'avvocato del diavolo o l'avvocato della pubblica amministrazione, poi le pratiche vanno anche lavorate. 4 mesi comunque direi che tendenzialmente è un buon risultato visti tutti i passaggi che ha dovuto fare. Ennio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, eccomi. Sì, no, la mia testimonianza è solo per dire che questa burocrazia incerta porta a dismettere gli investimenti che si intendevano fare. Il mio esempio porta all'investimento in una caldaia che prevedeva degli sgravi fiscali, fatta nel 2006 credo, e dopodiché è stata ripresa da un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che ha di fatto adesso contestato questo sgravio fiscale. In questo momento avevo intenzione di fare il capotto della casa, preferisco non farlo piuttosto di avere poi un rischio di questo sgravio fiscale lanciato dall'ultima notizia del 75% il gravio poi in qualche modo venga ripreso. Incertezza, anche nonostante avendo usato a tutte le persone iscritti ai rispettivi hub professionali, di chi ha installato, di chi ha fatto la documentazione, di chi ha fatto la dichiarazione dei redditi. Grazie Ennio, ci prendiamo una pausa e poi ritorniamo col ministro, con Mario Puccioni. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Antonio Bertolotto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. 9 in punto. Ricaduta la linea col ministro D'Alì, adesso la recuperiamo, intanto sentiamo Luca da Brescia, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Volevo portare il mio caso pratico. Sono un ingegnere, appunto lavoro a Brescia, mi occupo di ambiente, sicurezza, strutture eccetera. Mi è capitato di affrontare una pratica dei vigili del fuoco per una multinazionale proprio in provincia di Brescia. Questa ditta ha due impianti localizzati in due paesi della provincia. Nel primo caso abbiamo fatto dei lavori di adeguamento, di messa a norma antincendio, andando a creare tutte le strutture per metterle in sicurezza eccetera. Sono stati spesi intorno ai 250-300 mila euro. Nel secondo caso la pratica invece l'ha presa in mano un altro funzionario dei vigili del fuoco, che ha ritenuto che invece l'impianto, che era veramente analogo perché comunque sia erano le stesse lavorazioni, era stato sufficiente adeguarlo con una spesa di 1.500-2.000 euro. La cosa ovviamente ha destato delle grandi sospetti anche sul mio operato da parte dei dirigenti della multinazionale, che hanno cominciato a storcere il naso quando nel secondo caso perché hanno pensato che nel primo caso lei si fosse intascato una cifra notevole. Diciamo che io ritengo questo, che nel primo caso hanno pensato che non sia stato sufficientemente bravo a spiegare la situazione queste sono cose che danneggiano moltissimo noi, ma comunque sia che creano una sfiducia anche da parte degli investitori, a mio parere. Grazie Luca per questa bella storia e questo bel esempio. Adesso ci arriveremo. Intanto col ministro D'Alia, questo tutor per l'impresa, che roba è? Chi è innanzitutto? È il responsabile dello sportello unico per le attività dell'impresa, che già è previsto nel nostro ordinamento e che è in capo alle Camere di Commercio in parecchie realtà del nostro paese, che oltre a svolgere le funzioni di sportello unico e quindi di garantire il rilascio delle autorizzazioni in un unico procedimento, con le complesse in un unico procedimento amministrativo, assiste le imprese anche in tutti gli altri adempimenti che queste hanno con altre pubbliche amministrazioni, pressando sui ritardi, segnalando le inadempienze e segnalando i ritardi, e quindi diventa una sorta di difensore civico della impresa in senso ovviamente molto semplice e così via. È uno strumento che ci è stato suggerito dal mondo delle imprese, perché le procedure di sportello unico sono procedure che fanno sì che tutti i pareri che le amministrazioni devono dare per quanto riguarda un'unica autorizzazione o alcune autorizzazioni vengono date con una procedura unica e semplificata, e questo ha aiutato tanto in alcune realtà e lo stiamo estendendo. A questo si aggiunge anche questa attività di tutoraggio, cioè di assistenza per quanto riguarda tutte le altre pratiche che nell'esercizio dell'attività di impresa vengono fatte. Quindi sono nuove assunzioni, non è nuovo personale. Si cerca di ampliare e di rafforzare il potere di chi già oggi è chiamato a semplificare l'attività dell'impresa nel rapporto con la pubblica. Ministro, mi consenta, vista la quantità di adempimenti che richiede questo paese, saranno un po' oberati di lavoro questi tutor, no? Ma guardi, io le dico questo lo comprendo perfettamente, se noi abbiamo adottato queste misure è perché la pensiamo esattamente come lei. Il punto è che evidentemente c'è la necessità di far capire che oggi c'è un'emergenza anche economica e che l'impresa va aiutata, perché l'impresa che cresce, l'impresa che produce, l'impresa che dà occupazione e sviluppo. E allora quando noi diciamo lei dice che nella PA, nella pubblica amministrazione non lo capiscono abbastanza questo. No, io penso che ci siano nella PA, non va qua assolutamente generalizzato. Io penso che nella pubblica amministrazione ci siano persone che fanno molto bene il loro dovere e che aiutano a rendere efficiente il sistema, e ci sono persone che invece non hanno voglia di lavorare. Noi dobbiamo trattare in maniera diversa queste persone, premiando chi lavora e punendo chi è fannullone. Puccioni, le piace quest'idea del tutor d'impresa? È un'idea che l'attrae come imprenditore? Ma sicuramente può essere una buona norma, può essere un buon aiuto. Secondo me le normative ci sono già, le normative alle quali le imprese si devono più o meno conformare sono normative europee fatte per nazioni mediamente dal punto di vista della PA efficienti. Secondo me in Italia molte volte si arriva a delle perversioni, perché i funzionari, che devo dire, guardi, anche nel nostro calvario noi abbiamo trovato sempre funzionari comunque sufficientemente preparati, cioè non posso sicuramente dire di aver trovato funzionari che manifestavano una scarsa produttività di lavoro. Quello che è che sicuramente subivano, e questo secondo me è la cosa più grave, grosse pressioni a livello politico da vari personaggi che gravitavano intorno alle istituzioni nelle quali lavoravano, per cercare di, tra virgolette, rallentare, creare problemi, ecco, perché alla fine il funzionario è l'arbitro della partita di calcio. Certo. Molte volte l'imprenditore si sente che, calcisticamente parlando, l'arbitro fa tifo per una delle due squadre. Questa è la situazione nella quale ci veniamo a trovare questo è interessante. Io ho due ultime domande per il ministro D'Alia prima di salutarlo, perché appunto so che ci deve salutare, e la prima è questa: a proposito dello snellimento per quanto riguarda soprattutto l'edilizia, ma in generale i cantieri e insomma i luoghi di lavoro, oggi c'è un articolo, se non erro, su Repubblica che dice che col decreto del fare insomma è arrivata un po' una botta in tema di sicurezza sul lavoro, no? Nel senso, una sorta di riduzione dei controlli, per così dire, con il decreto del fare. Che cosa ci dice in merito a questo? Non c'è un'eliminazione dei controlli, c'è una riduzione degli adempimenti, che è una cosa diversa, nel senso che noi abbiamo contato in questa materia tanti di quegli adempimenti burocratici che sono oneri nei confronti delle imprese e che non servono a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Poi siamo intervenuti chirurgicamente su tutte quelle procedure, tutti quegli adempimenti che non servono a tutelare la sicurezza sul lavoro, ma servono solo ed esclusivamente ad aggravare gli oneri e i costi per le imprese. Si tratta peraltro di una norma che è stata oggetto e che fa parte di questo provvedimento e che è stata ampiamente discussa anche con il Ministero del Lavoro, con le organizzazioni datoriali, proprio per trovare le soluzioni adatte. È una misura di semplificazione che ci è stata chiesta dalle imprese, che non si vogliono sottrarre agli obblighi sulla sicurezza del lavoro, ma vorrebbero che le procedure burocratiche fossero meno stupide, perché altrimenti poi dobbiamo metterci d'accordo. Cioè, se vogliamo una burocrazia che sia efficiente e quindi si occupi di tutelare gli interessi che realmente devono essere tutelati, o se vogliamo una burocrazia stupida che, per mettersi a posto le carte, chiede tante cose e poi comunque il bene, sicurezza sul lavoro, non viene comunque tutelato, come dimostrano anche alcuni eventi tragici di questi ultimi tempi. L'ultima domanda che le devo fare, gliela devo fare per forza, Ministro, è una domanda politica. Regge il governo dopo la sentenza di ieri della Consulta? Ma guardi, io penso che questo governo nasce in una situazione eccezionale, nasce dalla convergenza di forze politiche diverse. Io credo che nessuno si voglia assumere la responsabilità di tenere questo paese ancora in una situazione di anarchia. Noi paghiamo il ritardo con cui si è dato vita ad un governo in questo paese, e siccome il livello della crisi e il livello dei bisogni dei cittadini e delle imprese è elevato, io penso che noi dobbiamo proseguire in questa strada, e penso che la solidarietà tra le forze politiche non verrà meno. Dobbiamo mettere a riparo il governo e l'interesse nazionale dalle dispute politiche. E quindi regge? Penso di sì. Grazie al ministro D'Alia per essere stato con noi. Sentiamo Claudia da Lodi, buongiorno. Buongiorno, io sono un'imprenditrice, noi abbiamo 3 stabilimenti, 2 in Emilia Romagna e 1 in Lombardia. cosa dire, ogni giorno ci scontriamo con la burocrazia e va bene, ma soprattutto con la buona volontà, ci dobbiamo confrontare con la buona volontà dei funzionari che incontriamo, perché da questo dipende l'avanzamento di una pratica o insomma, scusate, sono un po' emozionata, quello che sarà della nostra azienda anche in alcuni casi. E questo non è giusto, anche perché noi imprenditori, quando sbagliamo, quando siamo in ritardo, quando sbagliamo, ma come sbagliano tutti, veniamo sempre e comunque ripresi e puniti in qualche modo. E questo avviene anche all'interno delle aziende. Io capisco il ragionamento, Claudia. Lei dice questo deve avvenire anche all'interno della pubblica amministrazione. E devo dire la verità, sono perfettamente d'accordo. Allora, noi adesso ci fermiamo e poi parliamo appunto con Antonio Bertolotto, che ho lasciato in sospeso per un po' e gliene chiedo scusa, ma so che è una persona paziente perché sta camminando da imprenditore per tutta l'Italia e quindi se ne perdonerà. Anche contro tutto questo, anche contro la burocrazia. Una bella storia, magari insomma lo riprenderemo più di una volta. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, partito da Cuneo a piedi, Antonio Bertolotto, imprenditore. Dove si trova oggi? Buongiorno. Dove si trova? Sono ad Asciano. Asciano, ok, perfetto, siamo in Toscana. Dunque, quando è partito, dove vuole arrivare? Ma guardi, sono partito il 1° di maggio, mese mariano, è il giorno del lavoratore. E sono partito perché non capisco più. Io sono un imprenditore, sono 45 anni che faccio l'imprenditore, ne ho quasi 60 e non capisco più. Sono 5-6 anni che la mia azienda soffre. Intanto vi faccio i complimenti per la vostra trasmissione, perché toccate dei temi che sono i temi che, come sta soffrendo la mia azienda, penso che soffrono un po' tutte le aziende che devono dipendere da un'autorizzazione. Le faccio un esempio. Chi fa l'imprenditore di scarpe, per dire un tipo di manifattura, il nonno, il bisnonno, lui ha fatto la fabbrica, per farla hanno dovuto chiedere i permessi, eccetera, eccetera, ma poi fanno scarpe. Non è che ogni scarpa ha bisogno di avere un collaudo, una cosa che dipende dalla pubblica amministrazione. Noi che costruiamo centrali elettriche, e soprattutto centrali che vanno a bonificare il gas delle discariche, ogni volta che tu devi farne una, è come quella che il nonno che ha fatto lo stabilimento, no? Parte tutto unita. Fino a 4-5 anni fa si faceva in 5-6 mesi, no? Adesso invece non si fanno più. Cioè lei dice addirittura peggiorata. E questo succede, mi sembra di capire, anche nell'edilizia. Nicola da Padova, buongiorno, è così? No, è caduto. Era un imprenditore dire. Allora, però, lei mi deve dire, non mi è arrivato al punto. Allora, è partito il 1° maggio, mese mariano, appunto la festa del lavoro. E dove vuole arrivare? Immagino a Roma? Ma intanto devo dare un contributo al paese, perché lamentarmi da qua. Allora, innanzitutto, aspetti, fermiamoci. Quanti chilometri al giorno riesce a fare a piedi? Da 20 a 30 chilometri. Da 20? Dipende dalle strade, naturalmente. Strade, anche il martedì inizio e il venerdì torno a casa. Cioè, il martedì, certo, e il venerdì ne faccio di meno. Il mercoledì e giovedì ne faccio di più, anche 30-30. E l'azienda come la gestisce? Al telefono, suppongo. L'azienda sabato, domenica e lunedì riunione aziendale. Io ho dei collaboratori che sono straordinari a tutti i livelli, e anche coi clienti, i fornitori vengono a incontrarmi per strada. Poi io ho sempre gestito molto l'azienda per telefono, perché abbiamo 42 centrali su un 37-38 discariche in Italia, da Curne a Cuneo a Corigliano Calabro a Treviso, perciò ho sempre girato via. E in questo suo pellegrinaggio, no, che insieme, da quel che ho capito, dato che ci sta il mese mariano, insieme un pellegrinaggio religioso e un pellegrinaggio imprenditoriale, che cosa fa quando arriva nelle cittadine, nei paesi, nelle città? Che cosa entro, fa? Entro nei bar, saluto la gente, dico: mi date un minuto, sono... Così faccio questo perché abbiamo dei problemi a livello nazionale, e poi guardo uno quello che magari che penso che mi abbia aperto il discorso, e lei che lavoro fa, o che, se è pensionato, che lavoro faceva, e si inizia il discorso. La prendono per matto, no? No, i primi due secondi ti guardano così, perché sa adesso tutti vengono a proporre dei calzini a venderti fazzoletti, siamo invasi di gente che deve vivere, purtroppo, e anche loro hanno i problemi. E io, dato che sono vestito in un certo modo, perché porto la mia tuta, che è il cravattino, capiscono subito che c'è qualcosa di particolare. E dove vuole arrivare? A Roma o arrivare addirittura in Sicilia, ho letto, da qualche parte? Se le gambe portano, vorrei toccare tutte le province italiane. Perché le province sono la caratterizzazione dell'Italia. Io sono fra quelli che pensano che le province vanno tenute aperte, non chiuse, togliendo la parte politica e tenerle come distretti regionali. Benissimo, guardi Bertolotto, la terremo sott'occhio, rimanga con noi, sentiamo Filiberto da Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo dire che riguardo alle sanzioni, no? Se le sanzioni, diciamo, alla pubblica amministrazione poi si pagano con le tasse dei cittadini, io che ho avuto già un danno dall'amministrazione pubblica, inoltre dovrò pagare con la mia quota parte queste sanzioni, e invece secondo me dovrebbe metterci la faccia un impiegato, un funzionario, comunque un responsabile, e che se ci fosse, qualora ci fosse qualcosa che non va, lui dovrebbe rispondere di persona con le proprie risorse, non con quelle pubbliche, altrimenti io ho un danno, due volte il danno. E poi ecco un appunto su tutta la burocrazia, stiamo ristrutturando la facciata del condominio, non le dico quante cose ci sono, se ci lavorano due imprese bisogna fare delle dichiarazioni, delle cose particolari, cioè si è complicato tutto, insomma, dichiarazione se la caldaia funziona, se è a norma, tutto solo per fare una facciata di un condominio, insomma in Italia penso che bisognerebbe mettere mano un po' a tante cose. Grazie Filiberto, il primo ragionamento, quello che faceva, non era male, il secondo naturalmente siamo perfettamente d'accordo. Angelo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora io volevo raccontare il mio caso. Io sono Angelo, siamo interessati alla sua storia, però si sente francamente in una maniera atroce. Riproviamo, cioè, ci sente? Senti meglio adesso? Sì, la sentiamo meglio, prego. Ok. La mia storia, io sono veloce che siamo quasi in chiusura, prego. Sono un imprenditore agricolo, ho provato a fare le serre fotovoltaiche, c'era un vincolo paesaggistico, il vincolo paesaggistico è stato superato, c'era un'attenzione ai beni architettonici, non c'era nessun vincolo, c'era solo un'attenzione, e la sovrintendenza ha deciso che era diventato un vincolo. Se io volevo, potevo ricorrere al TAR, mi dicevano posso anche spuntarla al TAR, ma nel frattempo i conti energia vari che questo governo ha, i nostri governi italiani hanno emesso in un anno, sono stati molteplici, per cui ho dovuto spostarmi di 120 chilometri per non perdere l'investimento. Angelo, la devo interrompere, grazie anche per la sua testimonianza, grazie a Mario Puccioni, Antonio Bertolotto, ci risentiamo sicuro, Filippo Aureggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 11 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.